Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi siamo qua, abbiamo Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, io sono qui e soprattutto ci sono i titoli del nostro sommario. Andiamo! Pronto, mi senti? Ma quanto mi senti? Parliamo di udito. Colpo di sonno, come metterlo KO. Glaucoma, ladro silenzioso che ti ruba la vista. Ci vuole orecchio, cantava Enzo Iannacci alcuni anni fa. Ma voi, in quanto ad orecchio, come siete messi? Lo scopriremo insieme nel corso di questa trasmissione, in cui ci farà da guida il professor Alessandro Martini, direttore dell'unità operativa di audiologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Professore, bentornato e grazie. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Professore, iniziamo dalle buone notizie, che sono musica per le nostre orecchie oltre che per il nostro cuore. Che cosa c'è di buono? Di buono, per quanto riguarda l'udito, vi sono delle tecnologie di riabilitazione molto interessanti, vi sono delle scoperte molto recenti per quanto riguarda delle future applicazioni per rigenerare l'udito. Diciamo che è un campo in cui si sta lavorando molto a livello di ricerca internazionale anche in Italia, e io credo che nei prossimi anni ci siano delle possibilità molto maggiori di quelle che possono essere state in passato. Ne parleremo nel corso della nostra puntata, ma professore, è un dato è certo che fra il sentire bene e non sentire nulla ci sono delle situazioni intermedie, e noi siamo portati a trascurare un po' il nostro udito e spesso arriviamo a consultare lo specialista quando la situazione è un po' compromessa. E quindi credo che per iniziare questa trasmissione sia corretto dare un messaggio, che è quello di non trascurare alcuni segnali che, riferite al medico, permetterebbero di arrivare ad una diagnosi. Proviamo a così evidenziarne alcuni, professor Martini. Ad esempio, la prima che mi viene in mente è: se ci accorgiamo che dobbiamo tenere il volume di radio e televisione molto alto, o se i nostri familiari si lamentano, questo dovrebbe suonare come un campanello d'allarme, professor Martini, ma ce ne sono altri. Sì, diciamo che se la perdita di udito è improvvisa è difficile non accorgersene, però nella stragrande maggioranza dei casi è lentamente progressiva, e quindi sono un po' gli altri che ce lo fanno notare. Perché appunto classicamente una volta era quando ci caricava il vecchio orologio a bilanciere, che quindi lo si metteva nelle due orecchie per sentire se funzionava. Oggi quegli orologi praticamente non ci sono più. Qualche volta è l'uso del telefonino, da una parte si sente meglio che dall'altra, sono sempre dei dubbi, ma il motivo principale per cui oggi qualcuno se ne accorge è la scaletta del volume dell'intensità della televisione, in cui quelli di casa lo sentono a 12-13 e invece per sentirlo bene bisogna alzarlo. Quello è una misura abbastanza obiettiva di una difficoltà uditiva. A quel punto è bene fare un controllo. Anche se avvertiamo ronzii, fischi o abbiamo la sensazione dell'orecchio tappato, professor Martini? Sì, lascerei stare il problema dei ronzii, soprattutto se sono bilaterali, perché questo amplia molto il quadro e può anche non essere un problema che riguarda direttamente solo l'udito. Ma soprattutto quando si sente l'orecchio tappato, quello che viene scambiato per soggettivamente può essere un tappo di cerume, può essere raffreddore, è sempre bene farlo vedere, perché spesso non si tratta di questo ma di qualche cosa che è più importante per il nostro udito, non certo per la vita ma per il nostro udito, per la nostra funzione uditiva, e intervenendo rapidamente, intervenendo subito, si può anche risolvere il problema. Oggi, avverto le mamme all'ascolto, parleremo anche di udito dei bambini, quindi chiamateci, il nostro numero verde è sempre a vostra disposizione, 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina, parliamo del colpo di sonno. Spesso si dice che arrivi come un fulmine a ciel sereno, ma in realtà non è proprio così. E allora oggi, con l'aiuto di un esperto, vi aiuterò a scoprirne i segni premonitori, a prevenirlo, e soprattutto a capire cosa fare se siete al volante. Per cui parlo soprattutto a voi che mi state ascoltando mentre siete alla guida. Fatemi salire in auto, mi accomodo di fianco a voi e ascoltate con me i consigli che ci deciderà il dottor Sergio Gasbarino, neurologo all'Università di Genova. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Intanto dottore, ci aiuti un po' a capire cos'è esattamente questo colpo di sonno e che differenza c'è tra quella normale stanchezza che avvertiamo magari a fine giornata e la stanchezza da cui ha origine invece il colpo di sonno. Beh, guardi, il colpo di sonno è qualcosa che interviene improvvisamente. Purtroppo la faccenda non è facilmente spiegabile rispetto alla stanchezza, almeno comunemente, e noi lo vediamo nei display dell'autostrada, spesso si confonde stanchezza con sonnolenza e colpo di sonno. Il colpo di sonno è un fatto che avviene improvvisamente, è quindi una perdita di coscienza temporanea che può portare dei danni gravissimi, soprattutto se si è alla guida. La stanchezza che uno ha a fine giornata può essere derivata dal lavoro o comunque dal trascorrere delle ore ed è un fenomeno progressivo, quindi non improvviso, e una persona può tranquillamente anche riposarsi o addormentarsi a seconda se lo ritiene opportuno. Dottore, lei dice è un fenomeno improvviso, in realtà gli studi dimostrano e a ben vedere ci sono dei segni premonitori che noi cerchiamo di contrastare, per cui arriva poi il colpo di sonno, arriva e uno si addormenta, ma qualcosa avrebbe dovuto metterlo in allerta. La ringrazio per questa domanda che mi sta facendo, perché è proprio uno dei dati che emergono dai vari studi che noi abbiamo fatto in passato. La persona prima di arrivare al colpo di sonno ha tutta una serie di segni premonitori anche importanti che conosce bene, ma la convinzione, la certezza di vincerli in qualche maniera lo porta, diciamo, a una certa sottostima del pericolo che sta correndo. Ad esempio, la valutazione può iniziare inizialmente con un ammiccamento continuo, cioè lo sbattimento delle palpebre, un senso di pesantezza, la inconsapevolezza della velocità e anche della zona, se siamo in autostrada, della zona di un disorientamento anche proprio da un punto di vista, diciamo così, dell'itinerario, cui tutti questi segni premonitori vengono sottovalutati. Poi a un certo punto, ovviamente, compare il colpo certo, di sonno, e allora a quel punto lì non c'è più niente da fare. Ecco, il colpo di sonno ci frega, ma dottore, c'è una cosa importante: noi spesso diamo la colpa alla stanchezza, ho dormito poco, la strada è lunga e noiosa. In realtà i vostri studi dimostrano che ci sono altri due coimputati per il colpo di sonno, quali? L'attività che noi svolgiamo alla guida è complessa, anche se in parte automatizzata. Sì. Vale a dire che si ha ovviamente il concorso importante di altri sistemi sensoriali, quali il visivo e l'acustico. È evidente che tutti insieme contribuiscono al mantenimento di un adeguato livello di vigilanza. Oggi stiamo percorrendo questa strada, cioè vediamo un'integrazione tra tutto questo. È evidente che allora, quando ci sia un problema anche all'apparato uditivo o al sistema visivo, grandemente può essere diminuita, ridotta la vigilanza. Allora, questo è un aspetto molto importante che deve essere valutato. Allora, e noi nell'attesa delle valutazioni, intanto diciamo che cosa abbiamo detto, che al colpo di sonno noi non riusciamo mai a resistere, quindi che cosa fare, dottor Gasbarino? Diamo allora, delle indicazioni pratiche. Che non sappiamo resistere al colpo di sonno perché ci vogliamo arrivare a tutti i costi, quindi in realtà è una falsa affermazione. Il discorso è che bisogna, quando noi abbiamo questa sequela di segni diciamo chiari che noi riconosciamo perché sono comuni e intuitivi per tutti, dobbiamo assolutamente, ribadisco, assolutamente fermarci e in questo caso adottare delle contromisure. La contromisura che sembra più efficace in questo caso è semplicemente dormire. Quindi non si deve parlare di stanchezza, perché la stanchezza uno può pensare che riposando in macchina o sgranchendo le articolazioni, camminando, le gambe o prendendo esclusivamente un caffè possa essere sufficiente. No, bisogna dormire almeno 20-30 minuti. Quindi una piazzola, si tirano sui finestrini, si tira giù la sicura. Un'aria di sosta è necessaria, sicuramente. Ecco, assolutamente. Dottor Gasbarino, io la ringrazio per essere stato con noi, anche di queste anticipazioni su cui la ricerca appunto sta cercando di fare luce. Buona giornata. La ringrazio. E a presto, grazie. A tutti voi. Pronto soccorso. Pronto? Pronto? Pronto? Chi è? Chi è? Adelina chi? Adelina chi? A sorella Attilio. Ma con chi può parlare lei? Con chi vuole parlare lei? Mi sentite bene? Ci sentite bene? Chiamateci, perché oggi ci occupiamo del nostro udito insieme al professor Martini. Professore, intanto io vorrei con lei fare un po' un passo indietro prima di sottolineare i segnali che devono farci insospettire. Come e quando si sviluppa l'udito? Quali sono i suoni, gli stimoli sensoriali uditivi che fanno bene ad un bambino che è ancora nella pancia della sua mamma? Ben prima della nascita, quando un bambino nasce, sì, ha già avuto una... Sì. Professor Martini, intanto noi la dobbiamo richiamare perché il professor Martini ha un problema di... No, siamo noi che lo sentiamo male. Professore, abbiamo fatto praticamente un test in diretta, perché io la sentivo malissimo. Ma, bene. Ma forse non era un problema uditivo. Forse non era... Ma perché visto, considerato i dati, insomma, i problemi di udito interessano veramente un gran numero di persone. Io vorrei però andare alle origini. Quando si sviluppa l'udito, le chiedevo, e soprattutto se ci può dire anche, ci sono tante ricerche che vanno a valutare i suoni che fanno bene al bambino quando è ancora nella pancia della mamma. Allora, l'udito si sviluppa già... è un dato progressivo dello sviluppo di tutti i nostri organi. Sì. Comunque già attorno alla 22esima-25esima settimana l'organo dell'udito nella maggior parte dei feti è sviluppato in modo sufficiente da sentire dei suoni. Attorno alle 28-29 settimane praticamente in tutti i feti che hanno un udito normale, che poi hanno un udito normale, questo è sviluppato. Il rumore dominante che viene percepito, i suoni dominanti, sono quelli all'interno del corpo della mamma, perché è ovvio che non è un ambiente silenzioso, i vasi pulsano, c'è sangue che corre, la digestione, il battito cardiaco raggiunge i 70-80 decibel di intensità alle orecchie del bambino, quindi è tutto un ambiente di rumore al quale si sovrappongono poi i rumori esterni. L'organo dell'udito del feto è particolarmente predisposto a sentire le frequenze basse, perché sono quelle del movimento degli organi della mamma, quindi attorno ai 500 Hz, ed è particolarmente abile a riconoscere poi la voce della mamma. Fa più fatica a sentire, per esempio, questo può dispiacere a noi maschietti, alla voce del papà, però è un dato di fatto. Perché viene confusa più facilmente dal rumore dell'ambiente in cui vive. Certo. Senta, professore, ci siamo occupati proprio la scorsa settimana di una bella ricerca condotta dal San Raffaele. Abbiamo avuto la professoressa Perani, che ci ha raccontato come attraverso questo studio si sia dimostrato che già i bambini nelle prime ore di vita, 24-48 ore, sanno apprezzare e comprendere l'armonia di Mozart, Schubert e Chopin, e sono addirittura sensibili alle variazioni tonali e anche alle dissonanze. Io vorrei approfittare di lei per dare anche dei consigli alle mamme di bambini di pochi giorni, di pochi mesi, e vorrei anche chiederle se e quando bisogna fare dei controlli. Questo è un aspetto molto importante, perché come si sente, il feto sente i rumori intestinali, i rumori del battito cardiaco, quando la mamma canta sente anche quello che fa la mamma tutto il giorno. Quindi, per esempio, è particolarmente, parliamo già del feto, quindi prima della nascita, abile a riconoscere dei pezzi musicali. Sì. E è stato dimostrato che sempre durante la vita intrauterina è in grado di riconoscerli, cioè quando viene presentato lo stesso pezzo la seconda o la terza volta si comporta, si muove in modo diverso di quando è presentato la prima volta. Quindi un'esperienza c'è già durante la vita intrauterina. E qui ci sono due aspetti: cosa è utile per il bambino e cosa lo può danneggiare. Perché la mamma poi può fare anche o dei lavori rumorosi o avere degli hobby particolarmente rumorosi, ed è anche stato dimostrato che vi possono essere delle sordità da rumore anche nel feto, che sono molto diverse da quelle che vediamo, siamo abituati a misurare poi in chi è adulto, che ce l'ha sulle frequenze acute, soprattutto se uno spara o va in discoteca o lavora in un ambiente rumoroso. Hanno delle frequenze diverse che sono interessate, ma soprattutto i modelli animali. Viene usata molto la pecora, perché è un organo uditivo che è molto simile a quello dell'uomo, e quindi nella pecora è stato dimostrato che quando la mamma pecora è stata sottoposta a rumori molto intensi, quando la pecora nasce viene fatto un esame audiometrico, abbiamo l'agnello, quando nasce, ha un danno, può avere un danno uditivo. Quindi se da una parte è utile che il la mamma durante la gravidanza, per esempio, ascolti della musica, perché questo stimola l'organo del bambino, deve stare anche molto attenta che non ci sia un'esposizione al rumore troppo forte, perché il bambino può nascere con un organo danneggiato. Andiamo ai controlli. Quando si fanno i controlli nei bambini, professor Martini? Ci sono stati attorno agli anni 80 in cui si cercava di fare degli esami durante la gravidanza. In realtà non si sono dimostrati utili, anche perché non c'era poi modo di intervenire. Adesso noi abbiamo la possibilità di farlo nel bambino appena nato, già dopo le 24 ore di vita, con un esame molto semplice, che è quello delle 8 emissioni acustiche. Si hanno dei risultati, e che è un esame che dura pochissimo, che non è invasivo, che con un'apparecchiatura che costa poco è anche facile addestrare il personale dei nidi a questo tipo di esame, noi abbiamo un'informazione molto precisa sul fatto se il bambino abbia un udito normale o meno. E per fortuna questo dovrebbe essere introdotto per legge anche in Italia come test obbligatorio alla nascita. Abbiamo Paola che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Paola. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei. Io telefonavo perché appunto ho trovato di interesse questo vostro argomento di oggi, perché ho un bambino che ha quasi 5 anni che spesso lamenta di avere le orecchie tappate. L'ho portato dal pediatra ogni volta, le prime volte, perché poi non ci ho più posto caso, la pediatra mi confermava che l'orecchio era assolutamente in ordine, non c'era niente. Però lui continua con questo disturbo. Il consiglio della pediatra era di fargli gonfiare dei palloncini, giusto per compensare. Io non so, secondo lei è una cosa normale, è una cosa che va approfondita da uno specialista? Professor Martini, lei che dice? Cosa farebbe? Probabilmente la sua pediatra l'avrà già inviato a fare almeno un timpanogramma o avrà eseguito alla pediatra un timpanogramma, perché molti pediatri si sono attrezzati con questo piccolo strumento diagnostico. Nei bambini l'orecchio tappato può dipendere soprattutto da problemi di tipo catarrale, conseguenti di solito a patologie nasali, adenoidee in particolare. Noi osserviamo tantissimi bambini che hanno presenza di una secrezione di un muco all'interno della cassa della membrana timpanica, e questo può dare una sensazione di orecchio chiuso. Direi che però un esame audiometrico, soprattutto se l'obiettività timpanica sembra normale, credo sia opportuno farlo. Paola, ha fatto questi esami? Stavo giusto pensando, la pediatra si limitava a dare uno sguardo al timpano con quell'attrezzino che hanno, esatto. Poi io mi sono accorta di recente in realtà che soprattutto uno dei due orecchi del bimbo ha più secrezione, per cui non so se le due cose forse siano correlate, visto quello anche che ha detto il professore. Professor Martini, le aggiunge qualcosa a questo dettaglio? Allora, se la secrezione è cerume, non può aiutare a spiegare il fatto che l'orecchio lo senta tappato, perché sono dei bambini come degli adulti che hanno un'abbondante produzione di cerume. Certamente questa va distinta da una secrezione che viene da una membrana timpanica perforata, perché questo ovviamente cambia completamente il quadro clinico e anche i provvedimenti da fare. Certo, quindi però possiamo dire, professore, che non sono esami invasivi, il medico può effettuarli anche in ambulatorio, si valuta la salute e la condizione del timpano, semplici. E voilà. E soprattutto i bambini, anche con l'età lì, si sottopongono a questo tipo di esame ben volentieri. E quindi io credo che se la pediatra ha qualche dubbio, può valer la pena che venga approfondito da uno specialista, ORL, audiologo, che possa visualizzare la membrana timpanica, eventualmente rimuovere queste secrezioni che probabilmente saranno cerume, banale cerume, ma soprattutto fare anche un timpanogramma e a 5 anni sicuramente anche un esame audiometrico. Allora, Paola, tutte le indicazioni, noi vi rinnoviamo l'invito a chiamare il nostro numero verde 824 0024, arrivano già numerosi messaggi sugli adolescenti, professor Martini, c'è anche una bella ricerca che è uscita adesso dall'Università del Mississippi, anche qua, che non siamo in America, i ragazzi si stordiscono con la musica, parleremo anche di questo, e mi raccomando, tutti i segnali che vi fanno, stimolati un po' da quanto ci siamo detto, pensare che il vostro udito sta perdendo qualche colpo. Bisogna arrivare velocemente ad una diagnosi e ci sono, come anticipava il professor Martini, delle diverse opzioni terapeutiche per ritornare a sentire bene. Ecco, ci siamo tornati insieme, professor Martini, abbiamo tanti ascoltatori che hanno bisogno di lei. Inizierei da Giorgio, che ci chiama da Milano. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Dunque, il mio problema all'udito è stato un po' da me provocato, purtroppo. Stavo controllando la batteria dell'auto, il livello del liquido ovviamente, che si fa una volta ogni tanto, e stoltamente non avevo troppa luce, ho acceso un accendino e la batteria è scoppiata. Mamma mia! È scoppiata a un palmo dalla faccia. Ma fortunatamente in questo caso, portando gli occhiali, il liquido è andato sugli occhiali e non è entrato l'acido negli occhi. Però ha rischiato grosso, Giorgio. Sì, vede molto, poi perché quando dite che noi donne non tocchiamo la mano, mettiamo neanche l'olio, vede, so, alla fine siamo più sagge. Penso che poi fra l'altro io facendo l'elettronico fa parte un po' anche del mio me. Va bene, e lì ho preso il momentino dello stupido. Va bene. Va bene. Andiamo avanti. E quindi sono andato al pronto soccorso, mi ha accompagnato mio figlio, vabbè, gli ho tutto bene. E mi hanno guardato a destra il timpano, la prima membrana, e dice: per noi è tutto a posto. C'era l'otorino. Però io adesso i bassi li sento ronzanti, cioè c'ho come una specie di ronzio all'orecchio destro, sì, come se fosse una corda, come se suonasse una corda di chitarra, quelle più piccole, no? Sì. Alta frequenza. Sento le alte, ma le basse le trasformo in alte, e quindi mi dà fastidio questo ronzio. Certo. Ora non so, siccome la prima membrana dicono buona, hanno visto che non, da questo scoppio non è successo, però appunto lo sentire il professore, se magari mi consiglia. Il professore lo sa. Professor Martini, cosa è successo a Giorgio? Pensi di quante storie simili alla sua vengono ogni giorno in ambulatorio. Diciamo che per sfortuna la membrana timpanica era robusta e non si è rotta, è stata una sfortuna, perché se si fosse rotta sarebbe stato più semplice ripararla, il danno probabilmente sarebbe rimasto a livello della membrana timpanica, mentre in questo modo probabilmente ha trasmesso l'energia sonora all'orecchio interno e ha creato un danno dell'organo del corti, della zona dell'orecchio interno, che più delle volte non è più recuperabile. Le chiedo, ha fatto un esame audiometrico? Le hanno fatto un esame audiometrico? Giorgio? Sì, ecco, questo è successo 20 giorni fa, 25, ha detto attenda un momentino e veda un po' come si evolve la cosa, perché per noi appunto al primo strato va bene, però di là non lo sappiamo. Quindi sì, adesso giustamente anche dietro consiglio del professore sicuramente lo farò. Giorgio, bisogna andare a farsi fare l'esame. Ma subito, anche perché le terapie eventuali, in genere il cortisone in questi casi è molto utile, se c'è un danno dell'orecchio interno è bene iniziarle rapidamente, quindi le consiglierei di farsi vedere prima possibile. Quindi non aspettare tanto, anche questo vale anche per tutte le persone che hanno avuto magari per un incidente come Giorgio un danno all'orecchio, bisogna subito fare gli esami per valutare l'udito? Assolutamente sì, senza aspettare. Noi la consideriamo un'urgenza, noi, questi pazienti vengono visti come urgenza. Andiamo a Renata, che ci chiama da Bergamo, buongiorno, vediamo che cosa succede a Renata. Buongiorno. Buongiorno Renata. Io ho un problema da un paio di mesi a questa parte, praticamente qualche volta, non sempre, quando parlo sento l'eco nell'orecchio, cioè mi rimbombano le parole nell'orecchio sinistro e mi dà veramente fastidio, certo. Non riesco a capire che cosa mi sta succedendo. Premetto che non sono andata dal medico. Renata, però noi la mettiamo subito in contatto col professor Martini. Professore, gli esami non ci piacciono tanto. Però anche questa è una situazione che, non conoscendo com'è il suo quadro obiettivo, cioè se c'è del cerume, una membrana timpanica, se non è raffreddata, è difficile dare un'interpretazione. Potrebbe essere una cosa, diciamo, molto banale. Però anche in questo caso una visita, un esame audiometrico, timpanometrico sono importanti per poter stabilire se il problema è dell'orecchio esterno, come dice il banale cerume, che impedisce una normale vibrazione della membrana timpanica, o se c'è un problema dell'orecchio medio, del muco, come nei bambini, all'orecchio medio, e quindi una patologia magari della tuba, cioè di quel canalino che unisce il naso all'orecchio, oppure se c'è un problema dell'orecchio interno. Professor quindi... Martini, più ci avviciniamo al cuore dell'orecchio, più il problema si fa serio, perché lei parla di orecchio esterno, medio e interno. Quando il problema interessa il cuore dell'orecchio, lì il problema si fa serio? È così? Il problema si fa serio perché prima di tutto noi abbiamo un numero molto piccolo di cellule dell'orecchio interno, le cellule ciliate interne, che sono le cellule che sono il vero organo sensoriale dell'orecchio, sono solo 3.000-3.500 per orecchio, quindi un numero limitatissimo rispetto ai milioni di cellule che noi abbiamo per esempio per la vista o per, più banalmente per l'olfatto. E come tutte le cellule nervose, diciamo, vivono una volta sola, almeno questo nei mammiferi. Per cui un danno, un conto è che sia un danno, chiamiamolo metabolico, cioè che la cellula sia stanca, sia un pochino affaticata e possiamo recuperarlo. Però se questo danno diventa un danno strutturale della cellula e quindi la cellula è portata a morire, questa non viene sostituita e quindi può comportare sia il calo di udito, gli acufeni, i rumori nell'orecchio, sensazioni strane di fastidio ai suoni esterni. E questo può essere provocato da tanti fattori, siano essi dei fattori di tipo traumatico, vascolare, dei farmaci, chiamiamoli ototossici, che abbiamo assunto, ed è bene intervenire subito perché purtroppo le armi farmacologiche che abbiamo a disposizione sono relativamente poche, però qualcosa abbiamo. In ogni caso, quando il danno diventa cronico, diventa persistente, abbiamo a livello farmacologico delle possibilità ancora inferiori e dobbiamo ricorrere a delle altre soluzioni di cui magari parleremo dopo. Che sono soluzioni chirurgiche? Se il danno è a livello dell'orecchio interno, sono in gran parte delle soluzioni tipo protesico, quella che è tanto odiata, protesi acustica, che però in molti casi è l'unica soluzione e se data bene di gran soddisfazione per il paziente, gli interventi vengono riservati a casi molto particolari. Andiamo a Roma, c'è Angelo, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno. Ci racconti, Angelo. Dunque, il problema, ecco, volevo sapere, io ho un leggero abbassamento dell'udito, volevo sapere se questa cosa potrebbe essere determinata dall'uso del telefonino. Io in particolare cerco sempre di utilizzare il viva voce per averlo più distante possibile dai nervi dell'orecchio e tutto quanto. Se può essere una cosa utile quella che sto facendo e se è questo che può determinare un abbassamento appunto dell'udito. Professor Martini, se risponde ad Angelo, risponde almeno ad altri 10-12 messaggi che proprio chiedono se è meglio utilizzare l'auricolare, il viva voce, se il telefonino può in qualche modo danneggiare il nostro udito. Ma è difficile che il danno dell'udito è legato a due fattori, che sono l'intensità a cui arriva il segnale e la durata dell'esposizione. È ovvio che se vengono presentati con un auricolare, di solito questa intensità è più vicina alla membrana timpanica e può essere maggiore causa di danno. Però per quanto riguarda il telefonino, è raro che l'intensità della voce sia particolarmente elevata. Quindi un soggetto che ha un udito relativamente normale, l'intensità è un'intensità che di solito non è causa di danno. Diverso è il discorso se noi parliamo di riproduttori acustici di tipo musicale, gli iPod, l'MP3, tutta questa famiglia di riproduttori musicali, in cui spesso invece l'intensità è molto più elevata e allora sì, può essere causa di danno anche persistente, sempre in rapporto alla durata dell'esposizione. Direi che per il telefonino la risposta oggi a livello internazionale per quanto riguarda il danno che produce ipoacusia, cioè calo dell'udito, è no. Quando parla di durata dell'esposizione, sappiamo che ci sono dei ragazzi, e così ci occupiamo anche di loro, che vivono praticamente con le cuffie o ascoltano la musica per ore e ore con l'auricolare. E questo cosa comporta? Quando è un tot di ore, ma quanto? Io le vedo sempre con le cuffie in testa. Sì, ed è purtroppo il fatto che oltre a tenerlo per molte ore, molti ragazzi, ed è stato dimostrato ormai da molte ricerche, lei accennava all'inizio quella ricerca dell'Università del Mississippi, sì. E sono impressionanti quei dati, perché più della metà di questi studenti di college usano il riproduttore ad un'intensità di 85 decibel. Teniamo presente che 85 decibel è quello che per legge diventa danno uditivo in un ambiente di lavoro. Quindi, e siccome lo utilizzano per molte ore, sono possibili candidati. Candidati ad un danno permanente della perdita uditiva. E poi su quello si deve intervenire in modo più... Come ritorniamo al discorso di prima, sì. Una volta che c'è un danno alle cellule ciliate interne, dopo è un guaio a cui spesso non si può porre rimedio, anche perché non è un danno così grave da ricorrere a provvedimenti di tipo chirurgico, però in genere causa una difficoltà a sentire la voce umana e soprattutto poi si accompagna a tutto il problema degli acufeni, che dopo sono un regalo che può rimanere per tutta la vita. Certo. E noi torniamo insieme, in linea con noi abbiamo Franca che ci chiama da Roma. Buongiorno Franca. Buongiorno a lei, volevo raccontarle questa mia esperienza. Io ho 60 anni e a un certo momento durante un volo intercontinentale nell'atterraggio ho sentito un dolore pazzesco ai timpani tutti e due contemporaneamente, e così è andata avanti per anni. Quindi alla fine io viaggiavo sempre con questo terrore dell'atterraggio, finché un giorno fortunatamente in America ho trovato dei tappi proprio per questo mio problema, che in Italia, a Roma dove io vivo, anche se mi sono fatta vedere da vari specialisti, allora nessuno mi aveva potuto dare un consiglio. Se questo può essere d'aiuto a qualcuno... Brava Franca! Professor Martini, con i tappini americani Franca ha risolto il suo problema. Intende dei tappi che mette nel condotto? Sì. Sì, dei tappi che si usano naturalmente una volta, quindi io me ne sono fatta una scorta enorme, quindi vengono avvitati nell'orecchio ed io ho ricominciato a volare con serenità, cosa che prima veramente ero terrorizzata. E certo. Nessuno mi ha potuto dare qui una soluzione o una spiegazione a questo fatto. Professore. Sì, allora nella maggior parte dei casi il problema nasce da una difficoltà di compensazione dalla parte del naso, quindi vi sono molti soggetti, anche molti colleghi americani, era un famoso professore di otochirurgia dell'Università di Los Angeles che si è fatto fare per 26 volte un buchino sul timpano, il classico drenaggio transtimpanico, perché volava molto spesso. Quindi io credo che la soluzione che è stata utile per la signora in realtà non possa andare bene per tutti, dipende dal problema, della causa che le provocava il dolore. Però, insomma, Franca almeno vola tranquilla. Grazie, questo è importante. Grazie Franca. Professore, siamo in attesa di collegarci con il professor Gianfrone, ordinario di audiologia all'Università La Sapienza di Roma, che ci racconterà le categorie di farmaci che possono in qualche modo danneggiare il nostro udito. Ma io aprirei una bella parentesi sugli aggiornamenti. Lei ci dica che cosa si può fare per protesi e chirurgia per risolvere i problemi di udito. Le novità. Posso prima fare un piccolo inciso per non lasciare una informazione che potrebbe sembrare terroristica per le mamme riguardo agli iPod e alla musica? Sì. Cioè, se il volume viene sulla metà del volume massimo, circa il 50%, non è assolutamente di danno. Sì. Quindi non costringete i vostri figli a non usarlo, l'importante è che lo utilizzino ad un volume corretto. Il problema è quando lo utilizzano per strada, in bicicletta, in motorino, perché allora se essendoci un rumore molto forte nella strada sono costretti, tra virgolette, a tenerlo più elevato, e lì abbiamo il doppio problema, quello del danno uditivo e di non sentire eventualmente un clacson, un avviso di qualcuno che sta arrivando, e quindi anche possibile causa di incidenti. Mi scusi questo inciso, ma credo ha fatto assolutamente bene, perché io ero già pronta ad andare a casa dalle mie e dire basta con questi iPod, e invece adesso dirò una cosa più saggia, quindi sentitelo non quando siete in motorino, non quando andate in bicicletta, sentitelo al giusto volume. Professor Martini, un'indicazione per le persone che hanno un udito compromesso, che cosa c'è di nuovo? Lasciando stare tutto il problema della chirurgia dell'orecchio medio e dell'otosclerosi, che è ormai un dato acquisito, certo, e che può dare dei benefici ormai ben stabili con degli standard particolarmente buoni, se noi abbiamo un danno dell'orecchio interno, quello che dicevamo prima, semplicemente proprio da invecchiamento, da rumore, da scoppio di qualche cosa, fino a qualche anno fa le soluzioni erano molto, molto scarse, perché la classica protesi acustica che chiudeva il condotto uditivo esterno faceva più fastidio che beneficio. Per fortuna da un 2-3 anni sono state immesse nel mercato delle cosiddette protesi open fitting, in cui sono piccole protesi che vengono poste dietro l'orecchio, che hanno un piccolo tappino che non chiude completamente l'orecchio e che amplifica solo i suoni, le frequenze che noi non udiamo, cioè le frequenze di solito medio-acute, non amplificando e lasciando che le frequenze basse escano dal condotto. E quindi questo è un'ottima soluzione per molte persone che hanno un problema su quel tipo di frequenze. E il medico toiatra o audiologo a cui possono rivolgersi i pazienti è in grado di suggerire se questo tipo di presidio, che ormai si trova in qualsiasi negozio, è molto diffuso in Italia, con delle regolazioni digitali estremamente buone, può essere la soluzione per quel determinato paziente. Poi esiste tutto il grosso capitolo delle protesi impiantabili dell'orecchio medio e soprattutto degli impianti cocleari, che hanno delle indicazioni molto diverse tra di loro. E poi esiste quello che si sta trovando in questo periodo, che sono la possibile applicazione di farmaci direttamente nell'orecchio interno, per esempio utilizzando la membrana basilare con delle piccole sonde, o anche semplicemente con dei gel che vengono inseriti con un'iniezione nella transtimpanica e che poi si solidificano, diventano meno fluidi una volta che sono a contatto con la temperatura del corpo, e che sono delle prospettive molto interessanti di terapia, ovviamente di tipo chiaramente specialistico. Certo, su pazienti opportunamente selezionati. Assolutamente molto selezionati. Abbiamo il professor Giancarlo Cianfron, ordinario di audiologia alla Sapienza di Roma, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. In chiusura parliamo dei farmaci ototossici. Quali farmaci sono e come facciamo ad accorgerci che quel farmaco ci può far male? Allora, guardi, sono tanti veramente i farmaci. Noi abbiamo fatto un elenco aggiornato e quindi veramente ci si rende conto di quanti possano essere anche di uso comune. Volendo fare una gerarchia, direi che i farmaci ototossici per antonomasia sono gli antibiotici, alcuni antibiotici ovviamente, non tutti, ma di uso abbastanza comune, come quelli che vengono definiti amminoglicosidi. È una categoria molto vasta di farmaci, ben noti ai medici ovviamente che li prescrivono, e bisogna stare molto attenti, soprattutto se la persona è già a rischio per altre motivazioni di tipo patologico. Poi bisogna stare attenti a alcuni diuretici, anche questi di uso comune, noi li chiamiamo diuretici dell'ANSA e la furosemide, qui non facciamo ovviamente nomi commerciali, ma molti di questi diuretici vengono assunti da persone di mezza età o persone anziane che quindi sono particolarmente a rischio, vengono usati per problemi cardiovascolari, ma direi di stare attenti anche agli antinfiammatori, i cosiddetti FANS, gli antinfiammatori non a base di cortisone, e anche l'aspirina direi a dosaggio pieno, cioè i 500 milligrammi o il grammo al giorno che spesso si assume per problematiche di tipo infiammatorio, di tipo dolorifico, quindi sicuramente è un qualcosa di cui bisogna assolutamente stare attenti perché c'è una sensibilità individuale, quindi parlarne sempre con il proprio medico, evitare il fai da te. Devo salutarvi, ringrazio il professor Cianfrone per essere stato con noi, il professor Martini, grazie a tutte e due. Vi auguro una buona giornata e domani vi do appuntamento dopo il GR delle 11.